combustibili dal 16 al 19 di febbraio al Teatro dell'Orologio. Ne parliamo con Samuele Chiovoloni, che ha curato la drammaturgia e la regia. Ci sei, Samuele? Eccoci qua, ciao. Benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa e raccontaci un po' di questo lavoro. Allora, Combustibili è uno dei pilastri teatrali che ha scritto Amelino Tomb, che è famosa per, diciamo, i suoi romanzi brevi, insomma, delle opere, diciamo, prettamente di narrativa. Negli anni invece ha scritto due o tre testi, insomma, adatti alla messa in scena. Combustibili è uno di questi qua. E allora, noi siamo un gruppo di Perugia, teatro indipendente, una compagnia che è nata nel 1985, Teatro di Sacco. Io sono un po' di anni, insomma, che curo le riduzioni, le drammaturgie, i testi e poi anche le regie delle nostre produzioni. Combustibili è un testo che parla apparentemente di cose abbastanza riconoscibili, tipo la guerra e il freddo, quindi una condizione di indigenza, di quello che noi abbiamo fatto insieme al cast, insomma, insieme ci hanno dato una mano, perché il nostro è anche un lavoro pieno di inserti video, di sonorizzazioni, è di allargare un po' questa percezione. La storia di un professore che ospita Daniele, che è il suo assistente, e Marina, che è la ragazza del suo assistente, all'interno del suo appartamento, mentre fuori infuria, insomma, questo conflitto. Non è molto chiaro quale sia il luogo, quale sia il posto, e da lì, insomma, avvengono una serie di avvenimenti, di cose che rendono molto molto molto molto avvincente e stretto il loro rapporto. Senti, rispetto al testo, ti sei rifatto a spettacoli precedenti o la tua è una riduzione, un adattamento perché va per conto suo? Sì, assolutamente, perché diciamo che in Italia Combustibili lo ha fatto solamente il Teatro dell'Elfo con la denominazione del testo così come è uscito in Italia, come Libri da Ardere. Sì. D'accordo? Io ho ripreso il titolo originale perché secondo me dava un rispetto. No, per quanto riguarda l'adattamento e la riduzione è assolutamente indipendente. Amelino Tomb utilizza, arriviamo un po' al plot centrale, diciamo che questi tre personaggi, che sono tutti e tre comunque legati alla letteratura in modo molto stretto, si trovano nella condizione di non avere nulla da bruciare. A questo punto rimane solamente la libreria del professore, e inizia un confronto serrato tra quelli che potrebbero essere i testi da bruciare prima e quelli da salvare, d'accordo? Sì. Questo è il punto. Amelino Tomb nel suo testo però utilizza dei libri e degli autori immaginari, d'accordo? Il mio lavoro principalmente, anzi prioritariamente, nel senso che la prima cosa che ho fatto è stato individuare dei testi realmente esistenti nel canone della letteratura occidentale ed inserire quelli all'interno del contenzioso, diciamo, tra i personaggi. Quindi abbiamo utilizzato Kurt Vonnegut, Mattatoio numero 5, Céline, Viaggio al termine della notte, Opinione di un clown di Eric Ball, insomma. Questa è stata la prima operazione, che è stato un modo per entrare noi proprio con tutti i piedi all'interno del disegno, insomma, di Amelie. Ok. Senti, allora, ci dai anche tutti i vostri riferimenti web per quanto riguarda la compagnia? Assolutamente. Allora, il sito è teatrodisacco.it, www.teatrodisacco.it. Poi naturalmente ci abbiamo sia la pagina Facebook che Twitter, e queste qui le cura tutto il nostro onnipresente direttore Roberto Vitelli, che è anche in scena. E per quanto riguarda invece lo spettacolo, noi siamo da giovedì a sabato all'Orologio in Sala Orfeo alle ore 20, mentre la domenica siamo in pomeridiana alle 17, sempre in Sala Orfeo. Questo è tutto, insomma. Mi raccomando, da adesso al Teatro dell'Orologio bisogna fare per forza la tessera, quindi chi ci vuole venire a vedere deve compilare il modulo di tesseramento su internet, che trovate su tutti i link del teatro. Ci ricordi anche attori e attrici in scena? Assolutamente. Il cast è composto da Roberto Biselli, Letizia Bravi, che è una bravissima attrice di Piacenza, e Mauro Milone, che è un attore valido romano, che è subentrato da poco nella nostra produzione e ha portato un grandissimo valore aggiunto. Che era anche un redattore di questa radio per la trasmissione del Teatro Valle Occupato. Ho fatto finta di non saperlo. Ho fatto finta di non saperlo. Allora, un abbraccio e ci vediamo a teatro. Va bene, d'accordo, ti aspetto. Ciao a tutti quanti, grazie ancora. Ciao, ciao Samuele. Ciao, ciao, ciao.